Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Non creda che salutino noi. Non salutano nemmeno lei, salutano il miliardo. Impari a giudicarli per quello che sono. Questi uomini avrebbero voluto diventare dei grandi ladri, ma in genere non ci sono riusciti. È difficile anche rubare. Le loro donne sono delle povere creature che si sono vendute ai mariti. E l'unica forma di ribellione si riduce a qualche tradimento. È una povera soddisfazione. Lo so perché piange, ha ragione. Lui è un bravo ragazzo, voleva trasformare la sua vita, ma questo non è possibile senza cambiare tutto il resto. E lui questo lo sa, è troppo giovane e impulsivo. Lui vorrebbe fare tante cose, mettere i ladri in prigione, redimere le prostitute e forse ridurre un pochino il mio patrimonio, ma è ancora troppo presto. Per il momento sono io quello che ho in mano la situazione e che può fare qualche cosa per lei senza chiederle nulla. Eh sì, pare vero che un uomo del genere, dopo aver elencato questa sorta di carrellata di sconcezze, possa fare qualcosa per una donna senza chiederle nulla. E chi c'è dall'altra parte in questa chiacchiera da spiaggia negli anni 50? C'è una donna spaesata. Oggi voglio parlare delle donne spaesate. Voi mi direte, ah, tu infame maschilista, le donne sono spaesate semplicemente perché sono gli uomini che vogliono sempre loro indicare la via, il luogo di appartenenza. Le donne devono essere libere, non c'è nessun maschio che dica loro che sono spaesate, perché lo spaesamento fa parte della loro natura femminile. Non vogliono confini, non vogliono imposizioni, sono donne, quindi rispettale per tali. Beh, invece le donne spaesate sono le donne che più apprezzo, quelle che più ammiro, quelle che più mi interessano. Sono le donne che, quando le vedi calate in mezzo al mondo, sembra che appartengano a un'altra specie, a un altro modo d'essere. Sembra che siano quasi delle extraterrestri calate in questa triste realtà che ci tocca vivere ogni giorno. E in questa carrellata di donne spaesate ho un compagno d'avventura che spesso avete sentito a questi microfoni, che è un uomo spaesato, è un giovane delle Puglie, sradicato, buttato dentro l'orrore della capitale, quindi nessuno come lui potrà parlare di donne spaesate. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno a tutti, neanche più tanto giovane, però comunque rimango spaesato qui. Beh, rimarrai spaesato per sempre. Per sempre. Voi sradicati, noi sradicati, anch'io sono un giovane contadino umbro sradicato e buttato nella vertigine della capitale, fra preti e politici, non so più da che parte andare. Beh, vediamo un po', innanzututto chi era la donna spaesata che abbiamo sentito? Era Martin Carroll, il film era del 54 di Alberto Lattuada, Dalla spiaggia, questo microcosmo ligure, appunto balneare, in cui il miliardario protervo cattivo sottrae alle cure. Che anno era? 54. L'anno in cui sono nato io. Vedi, e nacque la televisione italiana. Esatto. Beh, non è peregrino, perché da quell'anno in poi il ligure miliardario avrebbe offerto un posto in televisione. Ancora certo. Non c'era la televisione, certo. Quindi non c'era la collocazione principe in cui tutti gli uomini orrendi vogliono trovare paese alle donne spaesate. Certo, questa donna ha la bellezza dalla sua, e questa bellezza diventa appetibile, diventa collocabile, diventa spendibile. Raff Vallone rappresentava invece l'archetipo in quegli anni dell'uomo solido, roccioso, sano, del dopoguerra, pieno di principi, idealista in questo paesino che cerca di... Però anche di lui poi si dicevano cose. Ah, questo no, io non so, però diciamo, beh, sì, io era una voce di corridoio, però io racconto, no, però sulla superficie dell'archetipo di quello che lui incarnava nei film. Non so se è vero, me lo diceva mio padre quando ero piccolo. Che ti diceva? Di Raff Vallone. C'ha tutta quest'area di grande conquistatore di donne, però se ne sanno certe baggianate umbre, magari non è vero, però girava la voce. In ogni caso incarnava una mascolinità come archetipo di quegli anni, molto rocciosa, molto limpida, almeno nei film. Diceva, se si vedono i lampi da qualche parte c'è la tempesta. Ah, queste sono, dice di poi, per l'appunto, ma chi lo sa, comunque so. In ogni caso, per questo sono un giovane spaesato. Anche io sono spaesato, appunto. Fermi, dobbiamo dare la linea un attimo alle informazioni del traffico, fermiamoci un secondo, riprendiamo fiato, tra poco. Verona-Torino, trasferta d'affari, io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare, il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali, basta un autoradio digitale, DAB+. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Melog. Cronache meridiane. Ma mi vuole spiegare che senso comune c'è in una relazione tra lei e un ragazzino di 16 anni? Che cos'è? Un'amicizia? Sì, è un mio amico. Perché? È proibito. No, signora, non è vero e lei lo sa benissimo. Ci mancherebbe altro che un'amicizia desse questi risultati. Lorenzo ieri sera è ritornato a casa ubriaco, lo sa? Dice bugie, non studia più, trascura tutto, sembra impazzito. Senta, sono 10 anni che io sto in mezzo ai ragazzi, sai? Qualcosa credo d'aver imparato a capire, qualcosa. È che Lorenzo è innamorato di lei. Ma le giuro, padre, non ho mai pensato niente di male nei confronti di Lorenzo. Senta, si è mai chiesta che cosa succederà il giorno in cui Lorenzo la scoprirà diversa? E succederà, sai? Inutile che vuoi sapere particolare, anche John Wayne, se proprio vuoi saperlo. Sì, ma si diceva in Borotalco, non è che era vero che... Eh beh, sai, fra Borotalco e la campagna umbra non è che ci sia una differenza di qualità riguardo la certezza delle informazioni sugli usi personali. Ma io parlo degli archetipi, quello che incarna, quella è una mascolinità nitida, piena, vitale, vissuta da Raff Vallone, rassicurante per la donna, a differenza di quello che abbiamo ascoltato adesso, che è il mellifluo Romolo Valli, prete, che dice tutta la vita insieme ai ragazzi, lo dice con un tono che devo dire da adito a tutte le interpretazioni. È avvolgente, cioè suadente nel parlare con una Claudia Cardinale che è la ragazza che vedeva come una rivale, che è la ragazza con la valigia, splendida icona del 1961. Zurlini la mette in scena lungo questo road movie sulla Riviera Romagnola. Lei è una ballerina di rivista, quelle che appunto sollecitavano. In che anno siamo? Nel 61. Comunque vedi, abbiamo approcciato un decennio, metà anni 50, inizio anni 60. Ecco, lo spaesamento femminile come veniva rappresentato? Prendiamo questi due episodi, questi due elementi, mettiamoli a confronto. Veniva rappresentato proprio con questo occhio sensibile che avevano registi come Zurlini e soprattutto poi Pietrangeli, la voglia di capire, di raccontare una società attraverso lo sguardo femminile, la società degli uomini, strutturata da uomini secolarmente, da uomini maschilmente, e la donna crea il cortocircuito. Ma tu non vedi il lato più terrificante, non lo vedi perché è chiaro, la tua cultura pugliese ti rende cieco di fronte a questa evidenza. Le donne spaesate erano le donne che non erano ancora fidanzate, non erano sposate, non ambivano una famiglia, non volevano i figli. Le spaesate erano quasi delle povere matte che vagavano alla ricerca, semplicemente erano donne curiose, donne con vicende particolarmente articolate. Ancora in quegli anni fantastici per il cinema, per la creatività, per il risorgimento dell'idea dell'Italia unita e via dicendo, tutto questo. La donna ancora viene considerata spaesata se non rientra in un archetipo. Noi abbiamo fatto una puntata poco tempo fa sulle donne di piacere. Poteva essere puttana, quello sì, faceva parte di un ruolo. Però doveva essere madre, fidanzata, o doveva essere macerata e lacerata da amori terrificanti e tossici che la portavano alla morte, alla perdizione. Queste donne, che erano donne riflessive, erano le antesignane di quello che sarà poi il pensiero femminile nella sua accezione più poetica, più reale, più concreta e meno ideologica. Vengono considerate delle matte, o sbaglio? No, è verissimo. Infatti qui la Cardinale non è una prostituta, è una ballerina, però una ballerina di varietà, di avanspettacolo, quindi è in quella zona grigia, in quella intercapedia in cui l'uomo di buona famiglia la considera semplicemente già perduta, non prostituta. Non può essere solo un artista, no. Può essere o è ballerina fino in fondo, quindi puttana, o niente, non, è pazza, è indecifrabile. L'uomo aveva ancora delle categorie talmente radicate di quello che erano le donne o quello che lui pensava fossero le donne, o gli hanno raccontato i nonni, i genitori, gli zii, cosa fossero le donne, che non riusciva ancora a decifrare una varietà diversa, un caleidoscopio con mezze tinte delle possibili vie della femminilità. E la bellezza diventa oggetto di mercimonio, qualcosa da mettere in gioco come appunto da spendibile, e oggetto di rapacità degli uomini che lei incontra in questo road movie esistenziale. Perché non sono sposate, non sono fidanzate. Oggi ce la prendiamo con letture estremiste islamiche, ma è esattamente quello. Sì. Una donna che non c'è un uomo a garantirne comunque la virtù, non è accompagnata da un padre, da un fratello, da un marito, è una donna preda. E se è una donna preda, deve essere una donna disponibile. Infatti, vedi, sia sulla spiaggia che in questo caso si meravigliano come mai queste donne non abbiano la loro chiara definizione. Lo spartiacque è o madre di famiglia o donna di piacere, quindi decisamente non puoi starci, in metà non ci si può stare. Tu facevi riferimento alla mia pugliesità, qui siamo comunque in un contesto nordico, siamo fra anni 50 e anni 60 e anche al nord, nell'avanzato nord. Sì, ma la pugliesità è una categoria dell'esistenza a priori, certo, proprio, mondo, capito? Sì, sì. La rappresenta tutto il mondo, ci sono evidenze scientifiche su questo. Italiano terrone che amo, cantavano gli Scantos. Ecco, sì, vedi, certo. È chiaro, è così, andiamo avanti. Allora perché sei venuto qui, scusa? Sei stata te che mi hai chiamato. Io ti ho domandato solo se mio zio era in canonica e tu sei sceso subito qui. Ma hai fatto un male, avevo un sasso proprio sotto la schiena. Sei contenta che sia stato io? Su, andiamo che è tardi. Io vado avanti col motorino, eh. E io come torno, a piedi? Non si può mica rientrare insieme, la gente è maligna. Eh già, chissà che cosa sarebbero capaci di pensare. Prima che tu spieghi, pensa allo spaesamento di questa donna. La stratata, come si dice a Perugia, vuol dire appoggiata prona sul selciato, tanto lei c'ha ancora il segno del sasso e via dicendo, e poi la lascia lì, ritorna e la fa tornare a piedi perché la gente non dica. Esatto. Più spesata di così, esatto. Buttata sui sassi, usata, ma però no, la gente non deve sapere, quindi io torno da solo e tu torni a piedi per conto tuo. Contestualizza adesso. Il contesto è la campagna parmense, infatti il film è La Parmigiana, siamo ancora nel nord florido, se vogliamo avanzato. Lei è Kathleen Spack, magnificamente diretta da Pietrangeli, che appunto sbozza questo ritratto, ennesimo ritratto puntuale femminile di donna che vive la sua deflorazione con un seminarista di cui lei è innamorata, però lui è pieno di tutte le sue ideologie e appunto la sua vocazione molto contrastata. Poi nel finale del film lo ritroverà col baffetto gagà, ormai disinibito e furbesco. Cioè anche qui il suo viaggio, il viaggio di questa ragazza, metterà in evidenza ciò che gli uomini vogliono dalla bellezza femminile, ciò che gli uomini cercano e come vogliono incasellarla o utilizzarla, mai vivendo un rapporto alla pari con questo, mai giocandosela fino in fondo la partita, appunto perché ciò che destabilizza poi crea incomprensione. In questo caso lei è stata, diciamo, l'iniziatrice alla vita adulta di un uomo che aveva trovato la strada, faceva il seminarista perché in realtà non aveva trovato accondiscendenza femminile, infatti lei lo riporta a una virilità completa, se fa col baffetto. Sì, che sì. Poi c'è la coscienza macerata di quegli anni là, ancora fatta delle canoniche, delle curiale, no? In cui dagli scranni, come diceva D'Andrea, dagli scranni della chiesa poi si accede un po' a tutto quanto, quindi questa dimensione morale, moraleggiante è fortissima. Cosa pensa la gente di noi che appunto facciamo... viviamo la sessualità in maniera piena e disinibita e serena. E in questo caso qual è lo spesamento dal punto di vista della donna? Perché è spesato? Perché lei magari pensava che fosse una storia d'amore, forse non ne intravede l'aspetto vessatorio. No, lei è come una, la vittima di uno stroke. Lei è innamorata di questo ragazzo, perché in realtà è un bel ragazzo, è bello come lei, perché Spack era una di quelle donne bellissime e sensuali che riusciva ancora a rappresentare, che adesso non riesce più a rappresentare il cinema. Negli anni 60 c'era il ritratto a tutto tondo, nonostante i lacciuoli ancora moralistici, c'era la capacità di far evidenziare, far emergere la sensualità femminile attraverso questi corpi, questi volti, queste intenzioni, questi sguardi, queste voci meravigliose, anche doppiate, ma insomma erano dei corpi eccezionali e usati con la giusta malizia. Lei è innamorata di questo ragazzo, che è un bel ragazzo, solo che lui ha questa vocazione contrastata. Da lì in poi comincerà questo viaggio. Lei è un'orfana, quindi è, come dicevi tu, non ha le protezioni, è una donna già spaesata in partenza. Vedi che lo spaesamento corrisponde a non avere uomini che garantiscono per te, avere la solidità familiare dietro. L'orfana può fare qualunque cosa, chiunque. Incontrerà un buzzanca stentorio, stolido, poliziotto, cioè carabiniere siciliano, che la vuole prima sedurre, però poi vuole sposarla, cioè vuole che sia canonica come moglie, cioè vuole costringerla al massimo del ruolo, no? Proprio da meridionale dell'epoca, la vuole relegare al ruolo di moglie, proprio comunque attratto dalla sensualità, dalla sua sensualità prorompente e destabilizzante, quindi vive questa schizofrenia il personaggio. Già lui pensa, una volta mi disse un amico mio calabrese, dice: la moglie devi scegliere tra la brutta, se no ti mette le corna. Certo. Dico: ma come, sei pazzo? Fai una moglie inguardabile. E dice: no, la prendi troppo bella, ti mette le corna. Quindi per questo è destabilizzato Buzzanca.

La donna che era già classificata, prostituta da casino, ufficialmente riconosciuta col tesserino sanitario, con i controlli, quindi rinchiusa nel casino. Legge Merlin, esci dal casino e quindi diventi spesata. O continui a fare la puttana, o se no per te non c'è alternativa, è questo. Esattamente. Però Simon Signoret non ha l'aria poi così spesata. Di che film è, che non tutti hai detto lo sapevano. Il film è Adu e le compagne, lei si chiama Adua, con echi colonialisti appunto italiani. È una donna di grande personalità, una prostituta, che però decide, coglie l'occasione storica per diventare imprenditrice di se stessa, per aprirsi un ristorante con, in società con le amiche prostitute. Lui va a fare un lavoro, diciamo, più normale, meno... Sì. Vorrebbe fare la ristoratrice. I casini non ci sono più, quindi noi cambiamo mestiere. Inizialmente vorrebbe addirittura aprirsi questo casale di campagna e magari continuare anche a fare anche la prostituta. Però poi dopo ci prendono gusto. Sì, ma è il tipico... In quei film anni 60, si va in queste trattorie di campagna, sì. Grandi marpioni con innocentissime segretarie. A un certo punto si avvicina l'ostrice, volete farvi un riposino? Perché sopra la locanda c'era un orrido giaciglio dove magari quello poteva deflorare la povera ingenua che era andata lì pensando magari che fosse innamorato. Esattamente quel contesto, infatti, si aprono questa trattoria di campagna in cui potrebbero potenzialmente continuare a fare la loro attività. In realtà poi prendono gusto a essere ristoratrici, a essere donne rispettabili, però arriva il maschio papponesco, che era il grande Claudio Gora, che interpretava tutti questi commendatori, questi borghesi arcigni, protervi, capaci di irretire e col loro potere chiunque qualsiasi debole avessero sotto mano, e quindi queste quattro donne sono costrette di nuovo a ritornare all'antico gioco della prostituzione, perché appunto il potere economico glielo impone, cioè il ricatto economico, perché lui appunto le tiene sotto scacco dal punto di vista del denaro, possiede lo stabile in cui loro esercitano nel loro ristorante. I signori hanno chiesto il conto? No, veramente noi siamo stati invitati. Ah, ma gli inviti qui li faccio soltanto io. Allora siamo stati i suoi ospiti, a buon rendere, grazie. Già, così è andata bene per tutti. Voi avete guadagnato un pranzo e noi abbiamo evitato una fregatura. No, guardi, chiami la signorina Lolita. Non si preoccupi, gliela saluto io, la signorina Lolita. Ma c'è un malinteso. Nessun malinteso. Ale, aria. Questo che hai sentito era Gianrico Tedeschi, che appunto sempre nel film Adore Compagne è il fidanzato di Sandra Milo. Sandra Milo è la più spaesata di tutte, la più svampita di tutte. Che lo era geneticamente. Come personaggio proprio, o perlomeno ci giocava su questo personaggio. Pietrangeli l'ha resa benissimo in tutti i film in cui l'ha impiegata, appunto. E mentre Simon Signoret è stentorea e volitiva, sa quello che vuole e capisce anche l'altra varietà del maschio, cioè il maschio scroccone. Gianrico Tedeschi è venuto a scroccare un pranzo, non è il potere, il maschio è proprio debole, inerme, ma viscidino, che vuole semplicemente rimediare un po', di mettere insieme il pranzo con la cena, e approfitta papponesco anche lui di Sandra Milo. Ma lo sa che lei quando sorride, sa signora, lei è uguale spicciata a Ava Gardner. Ma chi, quella che sta col Walter Chiari? Uh-huh. Ma lei è matto, scusi, è una donna bellissima ed elegante, la Ava Gardner. No. Ma che mamma fumava la sigaretta? Che di maledetta idiota. Lei sarebbe perfetta nel cinema. Ma chi, io? Lei mi prende in giro, via. No, io sul serio. Anzi, sarei proprio curioso di sapere il parere del mio amico Augusto Paoletti. Lo conosce, no? Il conte Paoletti. Sta in quella bella vita, mia calza bici. Sì, però d'estate Augusto si trasferisce a Castiglioncello. Lì è in intimità con un sacco di personalità del cinema, Mastroianni, Sordi, Paolo Panelli. Scusi. Buonanotte, Doris. Mi veniva a mente, no? Quale altro spaesamento stiamo trattando? Questo qua è lo spaesamento di Micaela Ramazzotti nel film La prima cosa bella di Virzì del 2010. Virzì in fondo sta riscrivendo a modo suo tutta la commedia degli anni 60. Di fatto in questo film c'è la Sandrelli, Micaela Ramazzotti e la Sandrelli da giovane. Di fatto è un grande omaggio a Io lo conoscevo bene e a tutto il cinema che abbiamo più o meno attraversato in questi anni e in questa puntata. Il racconto è tutto rivolto al passato, di come questa donna libera, disinibita, toscana, avesse appunto una collisione ancora una volta con questo mondo di maschi un po' avidi, un po' inadeguati e molto cialtroni. Però sto pensando, guarda, quando fra altri 30 anni ci saranno due nuovi Sansonna Nicoletti che racconteranno com'è stata l'Italia, forse i documenti cinematografici più efficaci sono proprio i film di Virzì. Sì. Indubbiamente, perché gli ultimi tre film di Virzì raccontano fondamentalmente un pezzo d'Italia. Però sono anche un cinema derivativo, sono un cinema che ricalca, se ci pensi, come ti dicevo adesso, ricalca anche l'ultimo film, insomma, cioè La pazza gioia in fondo è una specie di sorpasso al femminile, sono tutti ricalcati su quel cinema archetipico degli anni 60. Questo è un bene, forse è un bene, però è un indizio anche forse di manierismo quasi obbligato. Forse bisognerebbe cercare i gangli dalla realtà in maniera diversa oggi, bisognerebbe che nascesse un autore. Però guarda, nella pazza gioia, adesso per non voler fare i fumosi di Battisti dopo la corazzata Potionkin, però se ci pensi bene, una fase d'Italia ormai sorpassata e passata come il periodo del berlusconismo, guarda come viene trattata in maniera totalmente diversa rispetto all'acrimonia tipica dei film più politicamente impegnati o la satira troppo facile, una decadenza che si intravede comunque dal logorarsi di un rapporto familiare fra una persona, certe sacche di società che comunque sia la nostra società apparentemente aperta, pronta ad gestire ogni diversità, quanto in realtà la disabilità psichica ancora venga chiusa e relegata dentro dei ghetti, dentro dei manicomi, via dicendo. Queste cose dice soltanto lui. In effetti lui di ottimo recupera dalla commedia all'italiana, più sana, più viscerale, la capacità del ritratto umano, che non è ideologico, come dicevi tu, satira facile, che parte da schemini bassamente ideologici. Sono due spaesate moderne le protagoniste del film che stiamo citando. Indubbiamente. Un film recentissimo, penso più spaesate di quelle. Sono il massimo. Una ricca, nobile, ex berlusconiana, ancora nel cuore berlusconiana, ma non se ne rende manco conto perché è molto svampita. Ho fatto una trasmissione con l'amico psichiatra Beppe Neri, addirittura mi ha fatto la nasi, quello che è. E l'altra, una poveretta cubista, un po' strafattona, anche lei innamorata di un papponcello di paese con moglie e figli, via dicendo, più spesate di loro. È vero, appunto, sono loro l'indizio, il sintomo di una società crudele, cinica, ma anche appunto tutta in trasformazione e tutta da raccontare. Insomma, io voglio sapere chi mi ha strappato il messaggero. Io? Ah. Mi servivano degli annunci. E perché? Da domani comincio a lavorare. Lavorare? Ma fammi leggere, fammi vedere. E che lavoro? Ah, bella presenza, eh? Beh. Ma li leggi i giornali? Altro che dattilografe. Questi cercano ragazze per i balletti verdi, rosa e che so io. Ma dai, papà, su. Ma perché? Ti manca qualche cosa qui? L'aria. Ma pensa piuttosto a sposarti. Guarda tua sorella. È proprio perché guardo lei. Oh, come sarebbe? Che vorresti dire? Invidia, lascia, invidia. Ah, comunque è ora che qualcun altro lavori in questa casa. La donna di oggi deve inserirsi nella produzione. Nel ritmo produttivo, ecco. Attraversiamo una congiuntura favorevole. Siamo in pieno miracolo economico. Gettiamo in faccia al mondo la superiorità di una razza e di un popolo. Io voglio farmi una vita mia, una carriera. Sai che bella carriera che farai. Bella la tua, pancia e televisione. Ecco, sempre così, mi odia. No, dice sono così. Sono stati educati male, Maria cara. Dimmi solo l'anno. 1962. Ecco, guarda, persiste lo spaesamento. Adesso puoi spiegare che film è, qual è il contesto. Il film è... Già, aspetta, ma io ho capito soltanto che viene rimproverato a una figlia di non seguire una regolare via come fa la sorella, che si mangia già con un farlocco accanto. Esattamente, che questo cognato stentoreo che è appunto post fascista. Che film parla è? Il film è La cuccagna di Luciano Salci. La cuccagna è il periodo del boom in cui appunto c'è una rinascita economica che il cognato post fascista fa, neanche tanto post, richiama e ricollega alla superiorità della razza italica che anche dal punto di vista economico primeggia in quegli anni. Sarà sì, un'illusione, con Piano Marshall, grazie. Sarà un'illusione appunto già evidente, e i registi e gli autori più accorti se ne accorgono. E ancora una volta la donna che sentimentalmente vorrebbe cambiare, vorrebbe inserirsi nella autonomia, nella possibilità di essere soggetto finalmente, mostra tutte le contraddizioni della società, quello che comincerà anche lei questo viaggio in una Roma piena di cialtroni, di commendatori come il corpulento Umberto Dorsi, avido ma anche un po' appunto subito arrestato, e incontrerà poi Luigi Tenco, l'esistenzialista in nero che ha una vocazione in questo film inquietante al suicidio. Poi insieme lei, attraverso l'amore, lo redimerà e riusciranno a fuggire insieme. No, spiega bene, questa è una cosa poco nota. C'era un film in cui c'era una sorta di profezia del suicidio di Tenco. Beh, lui è uno che rifiuta tutto in questo film. È un grande amico di Salce, Tenco. E a un certo punto finiscono in questa spiaggia dove c'è un poligono di tiro, è come se volessero cercare insieme la morte. Poi invece infatti si è sparato Tenco. Cioè questo infatti è un po' sinistro come presagio, però incarnava in un personaggio inedito in quegli anni, nel 62, cioè la figura da esistenzialista anche popolare, perché faceva delle canzoni molto popolari, che rifiuta la società. C'era stato Totò esistenzialista, ti esatto, ricordi? Meraviglioso. Totò, certo. Esistenzialista, sì, vestito loro di nero. Quella era la generazione precedente che derideva anche, che li prendeva in giro, sì, come, sì, fosse, sì, come oggi prende in giro, non so, adesso, una follia mode, totale. Ne prendeva il lato esteriore come moda, però Tenco era molto autentico in questo. Fermiamoci un attimo, tra poco. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a una Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità, e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere. E ascolta Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema Digital Radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Melog. Cronache meridiane. Ah, lei fa il cinema. E al Bolin ha parlato tante volte con me. Pensa, pure del tu. Oh, per niente mi ricordo, buio totale. Beh, certo, se lo vedessi, io sono anche una buona fisionomista. E a ballare, lascia. Non so come vuole lei. Va bene, come vuoi tu. Lasciati baciare. Sì, credo di non aver nulla da fare oggi, aspetta che ci penso. Lasciati baciare con le. No, no, va bene. Questa sera con la scuola. Sì, da Canova. Ti potrò baciare. Il sottofondo le gemelle Kessler che cantano Let Kiss. Il ballo, lasciati baciare, mamma mia. Beh, dunque, qua più che donna, cioè è una donna spaesata, ma mi sembra più spaesato l'uomo che con lei si confronta. Beh, no, questa è sempre Stefania Sandrini, magnifica, diretta dalla sublime Pietrangeli. Io la conoscevo bene, un ritratto femminile di una delicatezza, di una profondità, ricco di sfumature. Lei, appunto, è come una specie di meraviglioso guscio vuoto che arriva in questa Roma del 63, assolata. E cerca, vorrebbe aspirare al cinema, ma non sa neanche bene a cosa aspirare, non sa cosa desiderare, non lo sa, però è oggetto di desiderio degli uomini che se la passano di mano in mano. Lei subisce delle umiliazioni, come dirà lo scrittore, ma le scivolano addosso come su un impermeabile. Uno dei suoi amanti sarà uno scrittore che scrive di lei. La stessa cosa dicendo gli amanti intellettuali di Moana Pozzi. Sì. Che le scivolava tutto addosso, come se non la fosse, cioè la vedevi in una sorta di gangbang, le sembrava intangibile e incorruttibile rispetto alle decine di maschi infogliati che cercavano di profanarla. Era vicina a una sorta di sua intima spiritualità. Sì, ma che sono pippe mentali dei maschi, sinceramente. Invece queste di Pietrangeli, secondo me, sono riflessioni molto acute. Ancora una volta ci raccontano le aspirazioni del desiderio del boom, la super resistenza garantita dall'accesso allo schermo, alla società dello spettacolo, di una ragazza della provincia toscana, del mondo contadino, rurale, sofferente, che arriva alla ricerca di un sogno a Roma, e Roma l'avvolge nei suoi... Sai, erano gli anni di Cinecittà, in cui si cominciava a pensare, dopo la Cinecittà, poi tu in questo me lo insegni te, di fascistissima matrice, passando per il fotoromanzo, si comincia a capire che anche in Italia il cinema era una chance. Sì, poi c'è quella scena meravigliosa in cui lei accede a questa festa, in cui c'è quel campionario umano. Cioè, la cosa intelligente di questo film è che i soggetti maschili appaiono a lampi. Tutto è portato dalla Sandrelli, e c'è il tronissimo Tognazzi che farà un ballo davanti spettacolo per cercare di essere preso e ringaggiato appunto da Enrico Maria Salerno, che fa il divo, e Franco Fabrizi il viscido gestore di case, appunto di premi fittizi, illusori. Era quel mondo là dei premi che ci si dà l'un l'altro nelle conventicole varie. Dura tuttora, perché adesso l'estate comincia, la premiopoli dell'estate, capito? Certo. M'hanno invitato a me premio, guarda, una cosa, non dico i nomi, dice vorrebbe intervistare, poi era, che ne so, Carlo Conti, cose del genere, il premio personaggio dell'anno, dice, si farebbe, è disponibile ad essere intervistato. Dico, davvero, che culo. Yum, si è leccata. No, appunto, quindi questa, però negli anni 60 c'era già tutto il campionario, il bestiario era tutto già attivo, c'erano tutti i prodromi di quello che sarebbe venuto dopo, e le figure femminili sono il modo in cui tutto si riflette negli occhi delle donne, si riflette tutto questo è visibile. È per questo il loro spaesamento, perché se sono degli specchi che riflettono la realtà, non appartengono a quella realtà, quindi sono presenze bifronti, stanno in un altro mondo, il loro mondo è un altro, e vengono viste come qualcosa anche di inquietante, perché chi ti riflette è lo specchio in cui non vorresti mai vederti. Tu puoi giudicarmi come vuoi, ma qua in paese ho una buona reputazione, la gente mi stima. Pina, ma che adesso vogliamo litigare, dopo che siamo andati così d'accordo per tutta la giornata? Sì, proprio d'accordo, come se non mi fossi accorta di tutte le cose che non ti sono andate bene di me e della mia casa. Quando? Dobbiamo dirci tutto, no? E allora su, coraggio, comincio io e ti dico in faccia tutto quello che penso di te. Sei egoista, meschino, razzista, presuntuoso come tutti i romani, ecco cosa sei. Non sei democratico, non sei fine, frughi nelle stanze, maltratti gli animali, disprezzi il prossimo. Ecco perché uno come te non lo vorrei nella mia casa, neppure dipinto sul muro, chiaro? Ti dirò che questa della culandrona, che il soprannome viene dato, con un sedere gonfiato, già ce l'aveva grosso, Sandra Milo, viene gonfiato, che doveva rappresentare una donna particolarmente callipigia, quindi con un sederone molto bello, ma con un sederone, infatti è una donna da camionisti, una donna sola, che vive in una bella casa, mediamente benestante, c'ha un amico camionista che ogni volta fermava il camion, andava lì, però un affetto, un amore. E a un certo punto, adesso tu ricorda bene come, non mi ricordo come, va a casa un pretendente, uno vorrebbe sposarla, che era più infame, più schifoso di tutti. Esattamente, si conoscono per corrispondenza. Il film come si chiama? La Visita. Il film è La Visita, sempre del solito Mirabile. Film fantastico. Pietrangeli, sì, un film apparentemente minimale, un incontro a due in questa provincia, scrivimi fermo post, per corrispondenza si sono conosciuti scambiandosi le foto, e da Roma, prima dei siti di dating, prima delle donne che vanno a cercarsi nei siti di incontri, ne sto intervistando a tonnellate, nel treno va, cercano l'amore, ma cercano a volte anche compagnia, cercano sollazzo e via dicendo, e passano i fine settimana con le persone conosciute in rete. Allora hanno, si sono conosciuti attraverso una corrispondenza, e finalmente lui si presenta a casa sua. E chi era lui? Lui è un impiegato di una libreria romano, un ticcio, e François Perrier, meraviglioso. Morto di fame, schifoso, vuole attaccare il cappello praticamente. Doppiato, esattamente, doppiato con un iper sordi, no? Con quella viscidità bieca, arriva in questa provincia e ha, nonostante sia una figura meschina, porta con sé la superiorità della città sulla campagna. Perché viene da Roma, ragazzi, cioè, viene da Roma. Ha questa arroganza secolare, cioè, proterva anche lui, e quindi odia questi provincialotti che ha intorno, li tratta con disprezzo, si ubriaca. Però, ecco, Pietrangeli sarebbe, ecco la differenza fra creare le macchiette, che forse in parte difetto in cui scivola Virzì oggi, la genialità di Pietrangeli è quello di far scivolare Perrier nel finale verso un riscatto di sé, cogliendone le sfumature. Lui ammette le sue debolezze quando lei lo inchioda dopo questa filippica. Tipico la donna spesata. Sì. La donna non spesata avrebbe preso l'occasione al volo, dicendo sì, fa schifo, certo, ma finalmente mi regolarizzo a marito. Lei, proprio perché spesata, ne vede lo schifoso. Esatto. Lo tollera per una giornata e poi gli dice tutto in faccia, gli fa capire quanto sei schifoso. Con la sua sensibilità, appunto, da spaesata, da donna che osserva, che non si fa incasellare, ne osserva tutta e ne coglie tutta la meschinità, e lui dice sì, ma a stare soli si diventa delle bestie, cioè ammette il fatto che è diventato squallido per la sua solitudine. Quindi ammette il suo egoismo, la sua fame di sistemazione, la sua idea rapace, ma rapace per le piccole cose. In fondo lei era una modestissima donna, certo, però aveva la casa del suo, aveva un certo tiepido benessere di donna sola, era appetibile, insomma, se sarebbe presa volentieri. Mi ricordo le cose orrende, mangiava lui in modo schifoso, sì. Aveva un'igiene molto limitata, e le puntualizzava tutte le cose in quella casa, capito? Maltrattava i suoi animali, rompe un soprammobile e lo nasconde sotto il tappeto, no? Che sono piccoli dettagli, ma indicatori. Vero, no? Uomo di merda, diciamo la verità. Ma tu, che uomo sei? No, comprendo. Io look, TV, 2 hours, 2 ore. Ma come? Tu uomo, io donna, nessuno in casa e tu look TV. Oh, you're a little lunch. No, non sei mai! Ma cosa stai facendo? Come ti permetti? Per cui la più spaesata delle attrici italiane che perdura nel suo spaesamento, ahimè scomparsa dal mondo ma ancora vivente. Con una patologia che non la rende più presentabile, quindi Monica Vitti è ormai rimasta nel suo mondo eternamente spaesata, non è più nominata, non ne parla più nessuno, sappiamo che è viva, sappiamo che è qui a Roma, sappiamo che probabilmente non è più perfettamente padrona della sua capacità di relazionarsi, quindi ha realizzato il massimo dello spaesamento e ha sempre fatto la spaesata. È stata la quinta colonnella, l'unica donna ammessa nel novero dei grandi titani della commedia italiana, e in questo film La ragazza con la pistola di Monicelli è una siciliana che approda oltre Manica e mostra anche qui tutte le contraddizioni di una cultura siciliana da cui viene, e questo inglese che preferisce guardare la partita in TV che sedurla, però poi quando lui cerca di sedurla brutalmente, lei dice sì, ma la donna si deve sottrarre. Quindi è tutta la collisione delle culture ed è mostrata magnificamente, perché era spaesata sì, ma molto consapevole delle sue doti attoriali. Riprendiamo la nostra condizione uomini spaesati. La sigla ci dice che ce ne dobbiamo andare. Ciao Sansone. Ciao.